Minestre. Una volta si diceva che la minestra era la biada dell'uomo. Oggi i medici consigliano di mangiarne poca per non dilatare troppo lo stomaco e per lasciare la prevalenza al nutrimento carneo, il quale rinforza la fibra, mentre i farinacei, di cui le minestre ordinariamente si compongono, risolvendosi in tessuto adiposo, la rilassano. A questa teoria non contraddico, ma se mi fosse permessa un'osservazione direi: poca minestra a chi, non trovandosi nella pienezza delle sue forze né in perfetta salute, ha bisogno di un trattamento speciale. Poca minestra a coloro che, avendo tendenza alla pinguedine, ne vogliono rattenere lo sviluppo. Poca minestra e leggera nei pranzi di parata, se i commensali devono fare onore alle varie pietanze che le vengono appresso. Ma all'infuori di questi casi, una buona e generosa minestra, per chi ha uno scarso desinare, sarà sempre la benvenuta, e però fatele festa. Penetrato da questa ragione, mi farò un dovere di indicare tutte quelle minestre che via via l'esperienza mi verrà suggerendo. I piselli del numero 427 possono dar sapore e grazia, come tutti sanno, alle minestre in brodo di riso, pastine e malfattini, ma si prestano ancora meglio per improvvisare, se manca il brodo, il risotto del numero 75.